Io credo che sia così forte, così radicato, ma soprattutto così serio, con delle motivazioni così serie, così forti e così vere, più forse di qualunque altro movimento precedente, e così distanti dalle tattiche, dai piccoli interessi, dai disegnetti politici, no? Spesso i movimenti sono, diciamo, travolti dagli interessi politici, dai disegni politici, dalle tattiche, da queste cose qui, e quindi poi finiscono per risentire dei contraccolpi delle battaglie politiche esterne. Questo è un movimento che secondo me non ha questo difetto, è un movimento proprio che nasce solo nelle sue motivazioni e che vive solo in se stesso e nella sua capacità ideale, nella sua capacità di indicare una prospettiva, di scegliere una strada. È talmente così opposto alla vecchia politica, anche nelle sue motivazioni stesse. Questo è un movimento non violento, profondamente non violento, per questo fa anche un po' ridere quello che è stato raccontato nei giornali di domenica e di lunedì. È un movimento non violento, vuol dire non solo che è un movimento che non picchia e che non usa i bastoni, ma che ha un concetto profondamente diverso del potere. È un movimento che ritiene che la politica non sia rapporti di forza. È un cambio radicale nelle concezioni politiche dell'Occidente. Le concezioni politiche dell'Occidente, tutte, quelle di destra o di sinistra, si sono sempre basate sui rapporti di forza. Il grande maestro della politica occidentale è un grande pensatore come Niccolò Machiavelli, che ha tutto costruito su come si amministrano i rapporti di forza. E questo movimento per la prima volta fa saltare questo caposaldo della politica. Dice: non è il rapporto di forza quello che ci interessa. Quando parliamo di non violenza, parliamo di questo, di rifiuto di questo schema della politica. E allora diciamo: certo, è molto più robusto. I colpi li ha presi, ma è in grado di prenderli, è in grado di assorbirli, è in grado di reagire. Io credo che reagirà come ha sempre reagito in questi anni. Sono 3 anni che ogni volta che avviene un grande fatto politico si dice che il movimento è morto. Era morto quando la NATO bombardò la Jugoslavia nel 1999, invece no, rinacque immediatamente, anche se era isolatissimo. Vi ricordate in quei giorni? Doveva essere morto, doveva essere sepolto, scoppiò, ci fu pure il terrorismo, fu ucciso D'Antona, sembrava scomparso, e invece no, era fortissimo. E a settembre, pochi mesi dopo i bombardamenti, si presentò a Perugia e ci fu una marcia da Perugia a Assisi che era di nuovo di 200-300 mila persone, una cosa gigantesca, una cosa travolgente. E così è successo tutte le altre volte, è successo poi a Genova, poi è successo dopo Genova, poi è successo anche dopo l'11 settembre. Dopo ogni grande avvenimento lo diamo per morto. Ma non muore, sapete perché? Perché non si può uccidere, perché ragiona in un altro modo, lavora in un altro modo. E siccome gli danno dei colpi politici formidabili, ma con la politica tradizionale, è come quelli che si curano con l'omeopatia anziché con la medicina allopatica, no? E non gli fa niente.